24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:33 minuti, cari ascoltatori, eccoci in diretta fino alle 9. Siamo qui, il sondaggio di oggi è molto semplice. E voi? State con Emergency? Allora, la vicenda dei tre afghani di Emergency arrestati in Afghanistan. I tre volontari di Emergency arrestati in Afghanistan, l'accusa che poi non si capisce bene quale sia. L'appello dell'organizzazione Gino Strada è questa: io sto con Emergency, per chi vuole votare. Voi state con Emergency, organizzazione che da alcuni invece è accusata di essersi troppo politicizzata. Che ne pensate? Radio24.it nell'home page, bianco o nero, ne parleremo alle 8:30, ma questo è certo uno dei temi che trovate sui giornali, giornali che andiamo a vedere. In primo piano. La notizia che in realtà prende più titoli è quella della tragedia avvenuta ieri in Valvenosta con il treno che è deragliato, morte sul treno dei pendolari per il Corriere della Sera, strage sul treno dei pendolari per La Stampa, o frana sul treno dei pendolari per Il Messaggero. In realtà le aperture sono diversificate, c'è chi sceglie ancora la politica come Repubblica, la destra vince anche i ballottaggi, PDL e Lega espugnano Mantova, si è votato ieri per alcuni comuni, la goduria è doppia, Libero, sinistra ancora KO, sempre apertura politica. L'Afghanistan c'è sul giornale come apertura, terroristi, vittime o pirla. Questo è il titolo del giornale di Feltri, il pasticcio afghano, mentre Il Fatto apre fisco la lista degli intoccabili. Equitalia per AN, Forza Italia DS, non sollecitare i pagamenti. L'apertura economica del Sole 24 Ore, ok dei mercati al piano greco, dopo che l'Europa insomma ha detto il sì al piano di salvataggio della Grecia. Tremonti, prima azione comune dell'Unione Europea al via i nuovi tagli di Atene. Anche se vi preannuncio, oggi per me l'intervista del giorno è di cronaca, è di un fatto di cronaca che certo ha diviso l'Italia, vale a dire Garlasco, perché per la prima volta parlano, lo vedremo al Corriere della Sera, i genitori di Chiara Poggi. Alberto, non cercarci, per noi sei tu il colpevole. Alberto Stasi, lo vedremo poi perché certo è uno scoop del Corriere della Sera. Oh, come detto, c'è molto, io non mi voglio addentrare, soffermare su questa tragedia, insomma, di Merano, questa tragedia di un treno di pendolari deragliato probabilmente per una frana che è caduta e che, sulla quale è andata a sbattere ovviamente questo treno. 9 morti, 28 feriti. E tra l'altro la vicenda è incredibile, un tubo potrebbe essere nato tutto da che cosa? Dall'irrigazione partita, forse peraltro per sbaglio, nel Meleto di Franz Sprenger, che scrive a pagina 3 il Corriere della Sera Mario Porqueddu, insomma, non si spiega, non doveva partire quell'irrigazione, non è tempo di dare acqua alle mele, ma probabilmente è partita questa irrigazione verso le 8:30 del mattino. L'impianto era in funzione, mezz'ora dopo ho sentito venir giù la montagna. Certo, è una prima spiegazione che non si capisce, insomma, se possa davvero questo impianto di irrigazione su un meleto che praticamente era sopra la ferrovia, in un piano inclinato, in un terreno inclinato, probabilmente è partito questo dal tubo di irrigazione, è partita l'irrigazione del Meleto, è uscita talmente tanta acqua che ha fatto franare parte del terreno sulla ferrovia sottostante e dunque così potrebbe essere successa la tragedia. Comunque trovate molti articoli, molte cronache, molti resoconti di quello che è successo. Come non mi vorrei soffermare tantissimo sulla politica, come detto, è stato il giorno dei ballottaggi, PDL e Lega conquistano anche Mantova che dopo 65 anni passa al centrodestra, questo è l'elemento politico più importante dei ballottaggi di ieri. Che c'è da dire? C'è da dire che il PD ancora, Sergio Chiamparino superstar, fa un'intervista a Giorgio Santilli del Sole 24 Ore, a Ettore Boffano di Repubblica, scrive una lettera in prima pagina sul Messaggero dopo che aveva scritto Prodi che voleva il Partito Federale, gli ha risposto ieri Bersani, oggi scrive Sergio Chiamparino. Nell'intervista a Giorgio Santilli sul Sole 24 Ore Chiamparino insiste, ci vuole il Partito Federale, il PD federale o si fa il Partito del Nord. Lo ha detto bene Prodi, se crediamo che la riforma federalista vada portata fino in fondo, attrezziamo il partito in questo senso, rendendolo più autonomo a livello locale. Il gruppo dirigente c'è un segretario legittimato, ma lavorino pure alla ricostruzione del partito, ma bisogna dare più decentramento, più potere, insomma, al partito locale. E ancora un Chiamparino che parla dei ballottaggi di ieri, è la terza sconfitta dopo le politiche europee, rischiamo di essere marginali in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, lo conferma la perdita di Mantova, insomma se vogliamo essere credibili dobbiamo recuperare. Sempre per quel che riguarda la politica c'è un gran parlare di riforme, ma oggi francamente in maniera molto più noiosa che negli altri giorni, dunque sorvolo. C'è Lombardo, il presidente della regione Sicilia, che fa i nomi. La verità, lui aveva detto oggi farò i nomi all'assemblea regionale, in realtà qualche nome lo anticipa sul Corriere della Sera in un'intervista a Felice Cavallaro che trovate a pagina 30. Lombardo, mafia e politica, ecco i miei nemici. Siccome lui è stato forse sotto inchiesta a Catania per alcune intercettazioni, dice, applicando la legge del taglione, ecco che faccio qualche nome io. Leggo per esempio un'intercettazione del 3 aprile 2008, già pubblicata su un foglio locale, il nome di Pino Firrarello, senatore PDL, suocero del presidente della provincia di Catania Castiglione. Ecco un'intercettazione in cui si annuncia la mia morte politica grazie a un accordo con Berlusconi. Di Berlusconi, tra l'altro, Lombardo dice ha un silenzio ultimamente che mi rammarica sul piano umano e sul piano istituzionale. Eccola l'intercettazione, insomma parlano con, tra l'altro accusa anche Enzo Bianco del PD. Lui e Firrarello stanno insieme da 10 anni, si coalizzano sempre contro di me. Ecco, legga quanto dice nell'aprile 2008 Carmelo Frisenna, primo eletto di Forza Italia a Paternò, poi arrestato. La migliore operazione si chiama Firrarello, questo avrebbe detto in questa intercettazione. Quando all'inizio non ci stavano dando niente, si è fatto l'accordo con Berlusconi. Accordo su cosa? Scusi, chiede Felice Cavallaro. Ecco le parole di Firrarello. Ah sì, Lombardo mi sta bene, tanto muore di morte naturale, lo fanno attaccare, cioè arrestare, che te lo dice il sottoscritto, anche per una minchiata, per le assunzioni con sta multiservizi che hanno fatto a Catania, ma sono già preparati a sinistra, l'ha detto magari lui, l'ha detto agguerriti. Insomma, questa è l'intercettazione che Lombardo dice, ecco la dimostrazione chi sono i miei nemici, sono Enzo Bianco del PD, Pino Firrarello appunto di questa intercettazione, senatore del PDL, un Lombardo che insomma attacca, visto che io sono sotto attacco, ecco che io faccio i nomi. Vabbè, la politica, ripeto, è poca cosa, c'è più che politica quell'intreccio, quell'inchiesta di cui si sono perse un po' le tracce, che oggi rispunta un po' sui giornali, sulla famosa accusa della cricca del G8 che coinvolge anche il capo della protezione civile Bertolaso, indagato per corruzione sugli appalti per i grandi eventi, insieme ad Angelo Balducci, il suo ex cosiddetto numero 2, Fabio De Santis, Diego Anemone, sono gli altri tre in carcere, Bertolaso assolutamente no. Bertolaso che ieri per 5 ore è stato dai magistrati, fa sapere Repubblica pagina 4, la cricca, non ho fatto nulla di cui vergognarmi, se qualcosa è andata storta non dovete chiedere al sottoscritto, non ho mai avuto favori sessuali, quindi non ho mai barattato denaro, non ho mai barattato favori sessuali in cambio d'appalti. Insomma, secondo Repubblica, in questo incontro con i magistrati, 5 ore dei magistrati, ha negato tutto Bertolaso. Mentre Balducci, che è colui che è in carcere da un paio di mesi e che fa sapere la stampa sul quale insomma, se sono riversate intercettazioni, palate di fango per lui, la famiglia, storie di omosessualità, di prostituzione maschile, ricordate, insomma, questo sputtanamento totale, insomma, che c'è stato sui giornali. Balducci parla attraverso il deputato del PD Andrea Lulli di Prato, che è andato a trovarlo in carcere, l'ha incrociato, sapete che i parlamentari possono fare queste visite. Io almeno ho la coscienza a posto, l'ex capo del Consiglio dei Lavori Pubblici ha 2 mesi in carcere, a pagina 17 della Stampa. Insomma, certo non si può parlare delle inchieste in questi incontri, ma il deputato che gli dice stia su, non si sono dimenticati di lei, lui che dice è stato un momento durissimo, soprattutto i giorni di Pasqua, senza famiglia, ancora qui, ma per quanto mi riguarda, cioè riguarda me, io ho la coscienza a posto. Come a dire, interpreta questo parlamentare, mi sembrava volesse dire io ho la coscienza a posto, gli altri chissà, ma insomma io sono a posto. Comunque questa è la vicenda della politica oggi. Veniamo alla vicenda Gino Strada, Emergency, Afghanistan. Come detto, il nostro sondaggio: voi state con Emergency? Questa è la domanda che vi facciamo, dovete votare su radio24.it. Ci fa sapere Alberto Negri del Sole 24 Ore, abbiamo sentito anche nelle analisi a Radio 24, che insomma tutto è riconducibile probabilmente a una vendetta di questo Amrullah Saleh, che nel 2004 a 32 anni è diventato il più giovane capo al mondo di un servizio di intelligence, è il capo dei servizi segreti afghani. Con Gino Strada i rapporti sono sempre stati al calor bianco. I servizi afghani sono una banda di assassini, disse il fondatore di Emergency. Ho le prove che Emergency è un'organizzazione talebana, fu la replica di Saleh. E secondo Alberto Negri, da lì insomma è nato un po' tutto. Da allora questo capo ai servizi segreti ha cercato da sempre le prove, o comunque cercato di incastrare Gino Strada e la sua organizzazione fino all'episodio di Lashkargah. Ci sono moltissimi commenti sul Corriere della Sera, per esempio Franco Venturini in prima pagina, e l'editoriale di prima pagina è abbastanza duro. Garantisti sempre, questo è il titolo. Sappiamo che l'intelligence afghana obbedisce spesso, come del resto, a interessi poco confessabili, ma dice più avanti, voci: serviva una presa di posizione garantista da parte del governo italiano. Voci improvvide, sempre fino a prova contraria, si sono levate dalla maggioranza. Il ministro degli esteri Frattini ha espresso sconcerto e preoccupazione, ha pregato perché non risultassero vere le indiscrezioni del Times sulla confessione, poi smentite dagli stessi afghani. Ha fatto intervenire il nostro ambasciatore, ma noi avremmo preferito parole più nette e non soltanto da lui. E c'è da dire che questa critica c'è un po' sui vari giornali, non so, il Manifesto per esempio è molto duro, ma anche Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa, cioè perché no il garantismo in questo caso, mentre dall'altra parte, non so, giornali di centrodestra come Libero, non sono terroristi ma vittime di strada, oppure arrivando al più esplicito, terroristi, vittime o pirla, del giornale in primo piano. Allora, terroristi, vittime o pirla? Questa è la versione di Paolo Granzotto in un graffiante, ma insomma è un forte polemista, lo abbiamo avuto anche il nostro ospite, per questo ci piace, non tanto nella condivisione delle idee, ma insomma ci piacciono le idee forti, da una parte e dall'altra. O sono vittime di un complotto, o sono terroristi, ma Granzotto fa capire che probabilmente non ce li vediamo nel ruolo, o sono dei pirla, con rispetto parlando. C'è anche un Giancarlo Perna sul giornale, appunto molto duro nei confronti di Gino Strada, il generale pacifista in guerra con l'Occidente, tutta una serie di dichiarazioni, antioccidentale, terzomondista, incallito odiatore degli Stati Uniti e di Israele. Tra Bush e Hitler le analogie sono evidenti, disse. Osama Bin Laden e Bush più o meno lo stesso. È un dovere morale essere contro Stati Uniti e Occidente, la coalizione di cui l'Italia fa parte. Gli Stati Uniti hanno praticato sistematicamente il terrorismo di Stato, cioè alcune dichiarazioni di Gino Strada. Dall'altra parte invece, come detto, il Manifesto è la prima pagina, guerra ai testimoni, c'è una foto di operatori di Emergency, si riconosce Garatti, uno dei 3 arrestati in primo piano, questo chirurgo. C'è anche un'intervista invece al Fatto di Vauro, che fa una vignetta sul Manifesto, vale a dire c'è un soldato della NATO e c'è Frattini steso proprio a tappeto, il tappetino afghano. Questa sarebbe la visione di Frattini per Vauro. Vauro che poi in un'intervista al Fatto dice: ma quali terroristi sono, li conosco, sono chirurghi Marco Garatti che operano 11 ore di seguito senza mangiare, senza tirare un attimo un respiro. Questi sarebbero i terroristi. Tra l'altro, ricordo, alle 8.30 ne parleremo, Vauro sarà nostro ospite, Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri, sarà nostro ospite, si confronteranno col vostro parere. Voi state dalla parte di Emergency, questo vi chiediamo. Su Radio24.it, con tutte le polemiche annesse al caso, ne parleremo. Oh, io voglio andare allora al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera oggi, Giusy Fasano intervista i genitori di Chiara Poggi, la vittima di Garlasco, per la quale è stato processato e assolto in primo grado Alberto Stasi, il fidanzato. Per noi Alberto rimane l'assassino. Beh, è una frase pesantissima. Può scordarsi un riavvicinamento? È arrivato il momento di farci sentire un pochino. Inizia così questo colloquio, intervista, adesso basta. Colpevole, responsabile, la parola assassino sfugge o arriva solo una volta dalle bocche dei genitori di Chiara, che però dicono chiaramente questo: sia chiaro che per noi la sentenza di assoluzione e le motivazioni non hanno cambiato nulla, non abbiamo assolto Alberto, anche se c'è chi tenta di far passare un messaggio diverso. Secondo noi, due cosette vogliamo dirle. Per cominciare, va dire che per noi Alberto era e resta il colpevole dell'omicidio di Chiara. È vero, ho detto quelle parole, dice il padre, per me non è stato lui, ma era il 14 agosto del 2007. Lo dico una volta per tutte, su Alberto noi non la pensiamo più così da tempo. È stato un percorso travagliato, difficilissimo, graduale. Fra quelle parole di allora e oggi c'è un abisso e noi ora siamo convinti del contrario. Non ci sarà nessun riavvicinamento. Sentite quest'altra parola, perché Alberto Stasi ha sperato e ha detto, intervistato a Matrix: mi auguro di un giorno di riavvicinarmi alla famiglia di Chiara. Lo escludo nel modo più assoluto, taglia corto il padre. Perciò, per favore, meglio dimenticare questa strada e non cercarci più. Dovessi incontrarlo, cosa che non è mai successa a Garlasco, cambierei strada. E lo farei pure con i suoi genitori, anche se capisco che loro non hanno nessuna colpa se le cose sono andate così. Riguardo l'intervista Matrix, a un certo punto gli è stato chiesto quale fosse per lui, per Alberto, il momento peggiore. Mi sarei aspettato che parlasse di quando ha trovato sulle scale la mia ragazza, qui. E invece ha parlato di sé. Ha detto che il momento peggiore è stato quando l'hanno portato in carcere. Lui è qui a raccontarci quel momento. Chiara non c'è più. Ci hanno fatto poi molta impressione gli argomenti degli articoli che Chiara ha scaricato sulla sua chiavetta. Pedofilia. Perché? E perché salvare quelle cose sui delitti irrisolti? Lei non si interessava di gialli, non si interessava di omicidi e cose di questo genere. Insomma, è un'intervista durissima, un colloquio durissimo in cui, a pagina 27 del Corriere, Giusy Fasano fa parlare appunto i genitori di Chiara, che dicono: per noi rimane l'assassino. Voglio andare alle conclusioni, alle segnalazioni conclusive. La segnalazione conclusiva è questa, la trovo dal Corriere della Sera. Ricordate la vicenda di Adro nel Bresciano, dove il sindaco ha detto: non pagano la mensa ai genitori, i figli rimangono a digiuno. Ieri un imprenditore generoso, lo definisce il Corriere, chiamiamola pure una buona notizia, si è presentato in comune, ha versato un assegno di 10.000 euro e ha detto: pago io i debiti dei genitori. Non ha voluto lasciare il nome, ha consegnato però una lettera. Scrive tra l'altro Gian Giacomo Schiavi, il vice direttore del Corriere: non so voi, ma io mi sento di ringraziarlo per aver interrotto il digiuno dei bambini. Ha consegnato una lettera nella quale ha scritto questo: mi vergogno che proprio il mio paese sia paladino di questo spostare l'asticella dell'intolleranza di un passo l'anno, prima con la taglia sugli extracomunitari, poi il rifiuto del sostegno regionale, adesso con la mensa dei bambini. Quando facevo le elementari, ricorda questo imprenditore, alcuni miei compagni avevano il sostegno del patronato, noi eravamo siamo poveri, ma non ci siamo mai indignati per questo. Non sono comunista, alle ultime elezioni ho votato Formigoni. E poi un testo che è un atto d'accusa. Io non ci sto, questo è il titolo. Possibile che non capiscano quello che sta succedendo i miei compaesani? E i preti sono forse disponibili a barattare la difesa del crocifisso con qualche etto di razzismo? E poi a Berlusconi, dov'è il segretario del partito che ho votato, il partito dell'amore? E alla sinistra, dov'è? È scomparsa? So che tra le 40 famiglie morose alcuni sono furbetti che ne approfittano, ma di furbi ne conosco molti, scrive l'imprenditore. Alcuni sono milionari e vogliono fare la morale ad altri. In questo caso, nel dubbio, sto con i primi. Questo imprenditore anonimo ha detto: pago io la mensa dei bambini di Adro. Mi fermo qui. Sono le 8:18 minuti, ben rientrati in diretta, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Buongiorno. Ciao caro Alessandro, tutto bene? Ti sento ancora benissimo. Con questi colpetti di tosse, sono un po' preoccupata. Vabbè, finché vai in onda regolarmente. Me li riservi passerà. Tutti a me col microfono spento. Passerà, sì. Passerà. Allora, oggi parliamo di voli aerei. Il tema del viaggio lo affrontiamo spesso a Salvadanaio, visto che la stagione, speriamo, la bella stagione si avvicina sempre di più. Magari qualcuno sta già cominciando a prenotare con largo anticipo voli e vacanze, e allora oggi abbiamo voluto indagare su un aspetto molto interessante. Abbiamo preso a spunto una lettera pubblicata ieri dalle Sole 24 Ore nelle pagine della rubrica dell'Esperto Risponde. Un'ascoltatrice di Bari ha scritto così: ho acquistato un biglietto online per la tratta Milano-Bari pagando con carta di credito. A fronte di un prezzo base di 12 euro ho pagato quasi 47 euro di tasse, ma quello che mi ha lasciata perplessa è la voce supplemento transazione, che non avevo mai visto prima, un'ulteriore commissione di 5 euro. Che cosa significa? Allora, prendendo a spunto questa lettera, tra l'altro questa è anche una modalità che utilizziamo anche noi molto spesso, cioè quella magari di verificare se un caso segnalato da un ascoltatore sia prassi diffusa, poi sulla quale vale la pena fare un approfondimento, abbiamo voluto cercare di capire che cosa sono queste commissioni aggiuntive, perché sappiamo bene che ovviamente le promesse di prezzo delle compagnie aeree di cui possiamo acquistare e prenotare i voli con il canale online sono molto spesso e volentieri quasi sempre disattese, il prezzo finale in genere è abbastanza distante da quello promesso inizialmente, e questo lo sapevamo, però sembra che ci siano anche delle ulteriori spese e commissioni aggiuntive che escono fuori, insomma, a seconda delle circostanze, a seconda delle compagnie. Allora, questo è un ambito sul quale ha indagato la collega collaboratrice del Sole 24 Ore, Paola Bertelli, che abbiamo ridisturbato anche questa mattina. Paola, buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo ridisturbata. Io ricordo peraltro che Paola ci aveva aiutato ad orientarci anche nel campo dei rimborsi per i ritardi delle Ferrovie dello Stato qualche settimana fa. Allora Paola, queste spese aggiuntive, le compagnie ne applicano, diciamo, in maniera diversa, ma quali sono intanto le voci più diffuse, quelle che, come dire, un po' sorprendono meno i viaggiatori quando prenotano con l'online un volo aereo? Allora, sicuramente quelle che ormai ci hanno abituato a farci a trovare sui vari siti, soprattutto ovviamente legate alle compagnie low cost, sono i supplementi che loro chiamano tasse, dove sono dentro sia delle tasse vere e proprie e poi invece delle spese che sono della compagnia aerea che la ingloba in questa grande voce tasse. E poi abbiamo tutte, adesso è diventata di moda mettere il pagamento del bagaglio online, pagamento se hai bisogno se carichi il bagaglio in stiva, se devi portare delle attrezzature particolari, se vuoi fare il check-in online, che ogni tanto te lo chiamano anche obbligatorio, per cui ti danno la scelta, ma in realtà è obbligatorio, per cui altra voce che dovrebbe essere rimessa nel prezzo del biglietto. E poi arriviamo a questi famosi 5, 10, 15 euro finali che sembrano legate all'uso delle carte di credito. Poi però vai a parlare con le compagnie e invece si tratta semplicemente del costo che loro mettono nel prezzo per pagare i canali di vendita online. che all'inizio ci avevano venduto per gratuito. Certo, anche perché, no, anche perché Paola, volevo ricordare che comunque per prenotare con lo strumento online un volo o qualsiasi altra cosa, la carta di credito è l'unica alternativa, non è che abbiamo molte possibilità, per cui se ci fai pagare un obbligo imposto, sì, va bene, chiaramente. Il problema è che però non è molto chiara questa commissione dall'inizio. Quando si attiva la procedura per la prenotazione di un volo, sì, via via che la prenotazione va avanti si scoprono tutte queste spese aggiuntive, ma ce n'è magari qualcuna che invece compare quando la transazione sostanzialmente è già ultimata? Sì, esattamente, difatti questo è il problema principale. Alcune compagnie lo mettono scritto in piccolo, magari anche nelle prime schermate. Altre compagnie arrivi veramente all'ultima schermata quando devi fare il pagamento e scegliere la carta di credito, per cui veramente alla fine di tutto il processo di prenotazione. Ed è questo che poi ha fatto anche scattare critiche da parte delle associazioni dei consumatori che hanno fatto esposti in merito, eccetera. L'ADUC, per esempio, ha addirittura presentato un esposto all'autorità garante per la concorrenza del mercato riguardo in particolar modo all'Italia per pratica commerciale scorretta. Tu, peraltro, mi pare che all'Italia l'abbia sentita. Cosa hanno detto a questo proposito? Come giustificano queste voci aggiuntive che compaiono solo verso il finale della transazione, Paola? Naturalmente loro si giustificano dicendo che non compaiono alla fine della transazione, ma vengono scritte anche nelle schermate principali, e per cui è assolutamente una pratica correttissima quella che loro stanno facendo. Ecco, una cosa interessante che tu hai detto, che in genere magari la commissione questa che qualcuno attribuisce proprio, come dire, all'utilizzo della carta di credito, poi si scopre che in realtà si tratta di commissione di altra natura, in realtà le compagnie appunto la fanno pagare in misura diversa a seconda della carta che si utilizza. Ci puoi fare qualche esempio? Sì. Ci sono compagnie che fanno loro le chiamano promozioni temporanee su determinati tipi di carta, ad esempio alcune carte sono a costo zero, oppure se usi il metodo PayPal, che invece non è carta di credito ma è un modo un po' diverso di pagare online, alcune lo fanno a costo zero, alcune lo fanno a costo leggermente ridotto, ma non c'è una regola, non è che una carta costa sempre meno mentre l'altra un po' di più. Ogni compagnia fa a sé e applica le sue condizioni, le sue promozioni. Certo, magari ci sono degli accordi particolari con dei circuiti, pertanto appunto si ritiene di poter fare a volte delle promozioni e quindi delle tariffe più convenienti per i clienti. C'è però qualche compagnia particolarmente virtuosa che mi sembra non applichi nessun costo aggiuntivo? Sì. Quelle sono grandi soprattutto, sì. Esatto, si ricasca nelle grandi, per cui c'è Air France che non le applica, British non le applica, anche Iberia, KLM. E Lufthansa invece, che è una grande, le applica, è anche molto care, le scrive in schermata, piccoletto, subito viene fuori, però è la più cara forse. Ecco, il tema è proprio quello, sapere sin dall'inizio della procedura di pagamento a che cosa si potrebbe andare incontro e quindi, come dire, cercare di fare in modo che tutto il procedimento sia più trasparente possibile. Su questo lottano le associazioni dei consumatori e quindi, come dire, è chiaro che poi, Paola, il prezzo dell'online risulta sempre essere molto più conveniente rispetto ai canali tradizionali. Però la procedura non è totalmente trasparente. Su questo punto la carta dei diritti del passeggero, che l'ENAC ci suggerisce addirittura di portarci sempre con noi quando prenotiamo, quando siamo in giro, proprio per fare in modo di non trovarci di fronte a tante sorprese del tutto impreparati, su questo punto che cosa sostiene? C'è qualche riferimento in particolare? Sì, lei parla di tariffe, di trasparenza nelle tariffe, prevede che infatti la tariffa dovrebbe essere all inclusive. Poi la stessa carta dei diritti del passeggero si rifà al pacchetto Bersani, al regolamento europeo, eccetera, che vietano espressamente le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto delle spese, tasse e altri oneri aggiuntivi e via dicendo. Per cui, almeno in teoria, noi abbiamo delle norme che cercano di raggiungere la trasparenza. Però insomma non, come dire, si trova un pochino sempre la scappatoia per poter aggirare anche tutto quello che viene poi stabilito da carte dei diritti, da norme e quant'altro. Paola, noi stiamo chiudendo, hai un ultimo suggerimento da dare ai nostri ascoltatori quando si attiva un procedimento per pagare e prenotare un volo online? Allora, che cosa dobbiamo stare attenti? Ma purtroppo bisogna avere il tempo di finirlo tutto prima di capire il prezzo e prima di fare i paragoni. Perché alla fine devi essere soltanto fortunato di avere la carta giusta al momento giusto, in questo momento, la carta di credito giusta. Perché per il resto devi finire il procedimento prima di tirare le somme. Certo, questo poi naturalmente volevo dire, non abbiamo il tempo di approfondire questo aspetto, se si fa come dire, la prenotazione attraverso il canale online diretto della compagnia aerea. Ci sono poi anche dei portali, io ricordo quelli tradizionali con i quali si possono prenotare tutte le vacanze utilizzando solo lo strumento internet o Podo, Expedia e tanti altri che magari ci mettono già a confronto le tariffe più convenienti, sì. Quindi magari quella può costituire anche una base di partenza interessante. Paola, grazie, buona giornata e buon lavoro. Ci risentiamo presto per qualche altra rogna legata a viaggi, voli e quant'altro. A presto, buona giornata. A presto. Alessandro. Eccoci alle 12. Guarda, oggi ritorna un altro appuntamento, ne faremo diversi da qui alla fine della stagione dei redditi. Guida al 7.30, visto che domani esce un inserto molto articolato del Sole 24 Ore, cominciamo a lanciarlo e poi diamo tutti i dettagli agli ascoltatori su come gestire correttamente quest'anno la dichiarazione dei redditi. Benissimo, noi parliamo di quello che sta succedendo in Afghanistan. Io sto con Emergency, questo è l'appello che l'organizzazione di Gino Strada ha lanciato sul proprio sito e che si può firmare. Noi gli chiediamo proprio questo: voi state con Emergency? Sono le 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: i ballottaggi di 41 comuni ieri hanno confermato sostanzialmente la vittoria del centrodestra. In particolare si è affermata a Mantova la PDL, dove da 65 anni comandava invece la sinistra. È stato probabilmente un tubo rotto a causare l'incidente ferroviario di ieri in Val Venosta, 9 i morti. Un tubo di irrigazione avrebbe allagato il terreno di un meleto sovrastante la ferrovia, provocando poi uno smottamento di terra sui binari. Per noi Alberto Stasi è colpevole dell'omicidio di nostra figlia. Parlano per la prima volta al Corriere della Sera i genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco. Non cercarci più, dicono ad Alberto, assolto in primo grado. Per noi rimani l'assassino di nostra figlia. E infine per il calcio, stasera Fiorentina e Inter si affrontano nuovamente. È il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si parte dall'1-0 dell'andata per l'Inter. E allora 8.34 minuti, non ho parlato di Afghanistan, non ho parlato di Emergency, perché ne parliamo nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? L'appello sul sito www.emergency.it è questo: io sto con Emergency. Sono tantissime, decine di migliaia le firme, ci sarà anche una manifestazione sabato indetta alle 14.30 in piazza Navona, leggo proprio dal sito di Emergency, l'organizzazione fondata da Gino Strada, per la vicenda insomma dell'arresto di tre operatori di Emergency in Afghanistan nell'ospedale di Lashkargah. Noi vi chiediamo questo: voi state con Emergency? Bisogna dire che su Radio24.it state votando in molti, la maggioranza per ora dice di sì, il 68%, anzi 67%, mi correggo. Chi sta sicuramente con Emergency è Vauro Senesi. Vauro, buongiorno. Buongiorno a voi. Giornalista, insomma, ma anche autore di vignette sempre graffianti, anche oggi in prima pagina sul Manifesto. Perché Vauro, lei ha dipinto oggi Frattini, mi pare di capirlo, a tappetino di fronte a un militare della NATO in Afghanistan? Perché io credo che sia la prima volta che un ministro di fronte alla grave situazione di tre italiani, Marco Garatti, Matteo Dell'Aira e Matteo Pagano, arrestati in un paese straniero, in un paese in guerra, la prima posizione che prende è quella di dissociarsi dall'organizzazione, in questo caso Emergency, di cui quegli stessi italiani fanno parte, anche perché dissociazioni di questo tipo possono avere delle pessime interpretazioni in Afghanistan, possono essere molto malamente interpretate dai servizi o cosiddetti servizi di sicurezza afghani che fanno capo al governo Karzai e tanto più quelli che fanno capo a Gulab Mangal, che è il governatore dell'area, della zona di Hend. Tra l'altro la sta ascoltando, lo voglio salutare, il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica, è in collegamento da Bruxelles. Senatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Mantica. Buongiorno. Questa prendere le distanze, c'è da dire che oggi lei forse non ha avuto modo di vedere i giornali italiani essendo all'estero, ma anche Franco Venturini sul Corriere della Sera fa sue un po' le critiche, magari un po' più sfumate rispetto a quello di Vauro, a dire ci aspettavamo dal governo italiano una presa di posizione più garantista, mentre le prime dichiarazioni del ministro Frattini, ma anche lei insomma ha detto ci auguriamo che si accerti la verità, ma abbiamo qualche dubbio. Perché avete mostrato subito anche qualche dubbio su quello che è successo? Guardi, se lei mi facesse la domanda, lei sta con Emergency, le rispondo anch'io di sì. Qui il problema non è stare con Emergency o stare dalla parte dell'ospedale o stare dalla parte degli operatori. Qui si tratta da parte del governo italiano di dire noi siamo alleati del governo afghano, è successo un incidente. Noi avevamo subito detto due sono gli obiettivi immediati del governo, la verità nel più breve tempo possibile, augurandoci ovviamente che i tre siano, come noi riteniamo, assolutamente liberi da ogni sospetto. E in quel momento è partita una raffica di valutazioni assolutamente legittime, per amor di Dio, ma che con Emergency c'entrano molto poco. Cioè la NATO, gli inglesi, ISAF, il governatore, il governo. Beh, io voglio ricordare che noi facciamo parte della NATO, se noi abbiamo 2.000 uomini che diventeranno 3.000 nelle truppe ISAF, che siamo schierati con il governo Karzai, e mi domando quale posizione poteva assumere il governo. Certamente non può stare con Emergency quando denuncia solo e soltanto i bombardamenti della NATO e si dimentica che i talebani usano le cinture kamikaze e fanno strage di civili. Cioè, quindi l'accusa un po' è anche quella di Emergency, che fa un po' troppo politica, come mi pare che abbia detto. La mia dichiarazione fu: con Emergency non c'è problema, però forse il dottor Strada nel suo impegno umanitario si è messo a fare un po' troppa politica, il che ostacola anche un'azione che noi stiamo facendo molto discreta per arrivare a chiarire una situazione certamente di grande imbarazzo per il governo, ma voglio dire le posizioni sono assolutamente chiare e definite. Non vediamo è noi... se è proprio questa l'accusa, Vauro, che viene fatta, è questo infatti il motivo per cui sui giornali, non so, oggi avrà visto su... Sottolineerei come il sottosegretario. No, ma le spiego Vauro, mi scusi, su Libero, il giornale, perché per esempio ci sono questi atti di accusa, insomma, o sono dei terroristi o sono dei pirla, oggi titola il giornale, cioè capisce che sono tre italiani, eppure da alcuni giornali c'è un attacco. Sì, sono tre italiani di cui dovremmo andare orgogliosi, sono tre italiani che hanno fatto la loro vita la missione di salvare le vite altrui, quindi il titolo sono pirla si commenta da solo, non neanche voglia di perdere tempo a commentare una cosa così infame, insomma. Quello che mi interessava, sentivo giustamente il sottosegretario Mantica ricordava che l'Italia fa parte dell'ISAF, delle forze di liberazione, so che vengono chiamate così, dell'Afghanistan. Ecco, allora ancora di più mi stupisce la posizione del governo, perché l'ISAF ha negato la propria partecipazione all'arresto dei tre operatori sanitari e dei sei afghani, mentre poi è uscito un video dove si vedono chiaramente i soldati inglesi dentro l'ospedale di Emergency. Se l'Italia è, come è, alleata di questi signori, credo che abbia ancora più strumenti per pretendere intanto la verità dall'inizio, quindi non la menzogna, non siamo coinvolti, è un'operazione esclusivamente afghana, che ritengo offensiva rispetto a un alleato, no? Come noi siamo. Riguardo al fatto che Emergency faccia politica, sì, ha ragione anche qui il sottosegretario Mantica, come vede sono molto d'accordo. Emergency fa politica di pace, e la fa non soltanto con le enunciazioni, come spesso viene fatta, no? Come spesso viene fatta anche da quei signori che appunto mandano armi e militari e chiamano missioni di guerra missioni di pace, cosa che non si può imputare per esempio alla Russia, che ha parlato orgogliosamente dei nostri militari che combattono una guerra in Afghanistan. Bene, la fa dall'unica parte possibile, da quella delle vittime, dei feriti. Nessuno ha mai chiesto ad un ferito che arriva all'ospedale di emergency di Lashkargah se è stato dilaniato dal giubbotto esplosivo di un kamikaze o da un missile o da un drone ad alta tecnologia della NATO. Non si chiedono questo i medici, tentano di salvargli la vita. O lei dice o se è andato anche a combattere al fronte da talebano, perché questa è poi l'accusa, cioè talebani o no. Con i miei occhi nel centro di primo soccorso di Girsk, a pochi chilometri da Lashkargah, dove sono stato meno di 2 anni fa, ricoverati, arrivati da uno scontro che era lì vicino, perché quella, come sapete, è zona di forti combattimenti, un talebano e un soldato governativo distesi in 2 brande, una a fianco all'altro. Io questa immagine, in questa immagine che vi assicuro ho visto e girato, per cui c'è anche il video, c'è raccontata tutta la neutralità umana anche di emergenza. Neutralità umana, questo è interessante come concetto. Vorrei, senatore Mantica, lei la vede così, cioè il non distinguere. Gino Strada dice è come chiedere se all'ospedale di Niguarda a Milano si curano dei milanesi. Certo, lì ci sono anche i talebani, cureremo anche i talebani. Allora, noi non chiediamo niente. Però vorrei dire a Vauro e al dottor Strada, che lui rappresenta, io ho battuto le terre d'Africa per 5 anni. Posso raccontare ad Emergency che ci sono fiori di ospedali italiani in zone di guerra, nel nord Uganda, nella zona dei Grandi Laghi, che hanno vissuto momenti di guerre civili più o meno analoghe a quelle dell'Afghanistan, di cui non si parla, nel senso che la neutralità lì è stata vera. Nel nord dell'Uganda si operano i ribelli dell'LRA, del signor Kone, della Law Resistance Army, i soldati dell'esercito ugandese e i civili. È l'ospedale del dottor Corti, dell'ospedale di Gulu, famosissimo peraltro perché è il luogo dove si è scoperto il virus dell'Ebola e si è combattuto l'Ebola. La moglie del dottor Corti è morta in quell'ospedale avendo contratto l'Ebola. Sì, sono figure straordinarie. La figlia Dominique sta portando avanti anche la... Esatto. Beh, voglio dire, di questo ospedale che è neutrale, noi non abbiamo mai sentito. Ma voglio dire, cos'è allora la... Nemmeno al sottosegretario Mantica, voglio dire, nel momento in cui ci sono 3 operatori aspetti, perché in 2 non si capisce, delle forze di sicurezza mette in dubbio la neutralità di Emergency. Non so come i signori della sicurezza afghana che detengono i 3 operatori, se sentissero questa posizione, la prenderebbero. Probabilmente la prenderebbero come un via libera a continuare con i loro mezzi. Cioè, la cosa lei dice, Vauro, prima salviamoli, poi facciamo tutte le critiche del mondo, insomma, questo mi sembrerebbe il minimo della decenza. Ok, Mantica vuole replicare su questo, che poi No, voglio dire, io non voglio capire perché Emergency è l'unica. Allora, quello che ribadisce il governo, di operazioni come Emergency il mondo è pieno, e di italiani, di strutture italiane che svolgono questa attività in maniera neutrale, il nostro mondo è pieno. La generosità e la solidarietà di Emergency sono esattamente come quella di altri, e fin qui tutto bene. Io sto con Emergency. Il problema è che non si può dichiarare, come è stato fatto, che l'attacco ad Emergency è perché loro sono l'unica voce libera contro il silenzio che viene imposto dalle autorità afghane e dalla NATO nella guerra che si sta svolgendo nella regione di Helmand. Se il signor Vauro ritiene che questa sia una dichiarazione neutrale, lo dica. A noi non sembra. Ce lo dice dopo il traffico. Intanto voglio salutare, anche ci sta ascoltando, il sindaco di Silea in provincia di Treviso, Silvano Piazza. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Noi l'abbiamo chiamata anche perché lei è il cognato di Matteo Dell'Aira, cioè sua sorella. Allora ci spieghi, lei è il cognato, cioè la sua moglie è la sorella di Matteo, uno dei tre detenuti in Afghanistan. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, voi state con Emergency. Vorrei 2 ascoltatori prima di andare dal nostro sindaco. Ivano da Modena, buongiorno. Buongiorno a tutti. Una riga soltanto. Vittima di un brutale atto terroristico rivolto contro l'Italia, con eccezionale coraggio ed esemplare amor di patria, affrontava la barbara esecuzione tenendo alto il prestigio e l'onore del suo paese. Questa è la motivazione con cui fu conferita la medaglia d'oro al valor civile a Fabrizio Quattrocchi, che insieme a sì, in Iraq, che furono rapiti in Iraq, che ed erano guardie del corpo private, con tutto il rispetto per il lavoro naturalmente e per una persona che ha perso la vita, non voglio far polemica su questo, dico soltanto che se addirittura a una guardia del corpo che lavorava in Iraq è stata conferita la medaglia d'oro al valore civile, sono stati accolti come eroi quando sono tornati quelli vivi e hanno rischiato la vita, giustamente ogni lavoratore che lavora e rischia la vita ha diritto al rispetto, io dico che Emergency per quello che fa quantomeno non meritava la diffidenza e la freddezza del ministro Frattini nelle sue prime dichiarazioni. La diffidenza, va bene, grazie Ivano, voglio andare a Umberto, provincia di Roma. Umberto, buongiorno. Sì, dite. Sì. Niente, io volevo fare un'osservazione, un commento alle scelte che fate ogni volta con questo bianco e nero, sì. Perché secondo me state dando una grossissima enfasi a tutti questi fatti, che sono fatti specifici, che l'interesse nazionale è molto limitato. Io penso che Emergency sia un missionario comunista, così come quel disegnatore che avete lì. Ora, se lui si può fare la sua vignetta alla terza pagina del manifesto, se la faccia. Beh, la fa in prima, un po' più fortunato la fa in prima, gli danno l'onore della prima. La fa in prima, benissimo, però a un certo punto io ho la possibilità di scegliere se leggerlo o no. In me sono tanti problemi che interessano noi. Insomma, per esempio la pubblica amministrazione perché non paga? Io sono imprenditore, non prendo soldi dal comune. Domani, Umberto, domani parleremo di pubblica amministrazione, che le devo dire? Guardi, oggi i giornali parlano abbastanza di questo, e non giornali comunisti come quello di Vauro, non solo voi Vauro, anche la stampa, il Corriere, questi giornali vetero comunisti come il Corriere della Sera, certo. Sole 24 Ore. Comunque, insomma, Silvano Piazza, sindaco di Silea, state vivendo, immagino, anche in famiglia una situazione di grossa tensione. Voi come le vedete queste polemiche? Le vedete come qualcosa che rischiano di mettere in difficoltà la situazione anche dei vostri familiari? Io personalmente ero fiducioso fino a ieri sera. Ero fiducioso perché davo per scontato che il governo italiano fosse, come dire, accanto a questi tre ragazzi italiani. Ieri ho visto la trasmissione e ho cambiato idea. Però ecco, addirittura dice, qua c'è il sottosegretario all'estero, cioè sta dicendo che li stanno abbandonando, non credo proprio. Ma no, ci sono stati interventi troppo tecnicisti, troppo valutazioni astratte, io credo che quelle persone siano là e curano feriti e basta. Io poi ho l'altro grosso problema quando si parla, l'ha detto anche il giornalista del giornale, sì, perché voi parlate. Ora a me è venuta in mente la vicenda di padre Zanotelli, no? Quando ha denunciato il commercio di armi ed è stato rimosso dalla rivista Nigrizia, no? Sì, sì. E allora io dico, ma certe figure, che siano missionari in Africa o medici, in questo caso di Emergency, non possono non parlare, cioè non possono non raccontare la verità. Allora, se da un lato io potrei anche sostenere l'intervento italiano in Afghanistan, dall'altro non posso non sapere cosa succede lì. Perché cioè lì se fanno bene anche a denunciare, non so, Gino Strada fa bene, oltre a fare l'intervento umanitario, a dire la guerra è un disastro. Denunciare l'orrore della guerra, la guerra... Ma lei oggi, noi adesso cosa stiamo facendo? I giornalisti cosa fanno se non raccontare la verità? Cioè allora io dico o questo deve essere un paese che nasconde, o è un paese che dice la verità. Io credo che gli italiani vogliono se poi la verità sempre e comunque sia. Ci descrive chi è Matteo, cioè appunto il fratello di sua moglie, il suo cognato, che è lì in Afghanistan, con quali ideali, con quale spirito è partito lì? Lui ha fatto diverse missioni in Afghanistan, quindi è da 11 anni con Emergency, ogni anno partiva, è stato anche in Sudan e in Cambogia una volta, è una persona che sente la necessità quasi di lavorare per gli altri, lo fa come con la sua professionalità, che è un infermiere lui. Come infermiere, poi le dirò, noi quando ci troviamo parliamo di Milan e Inter, di libri, di tante altre cose, anche una persona comune. E quindi è evidente che si parla anche di tante altre cose. Però lei sindaco ha detto una cosa interessante, qui c'è il sottosegretario degli esteri Mantica, cioè ha detto lei vedendo ieri immagino porta a porta ha cambiato idea sul fatto che il governo sia fortemente dietro questi ragazzi. Senatore Mantica, insomma, vuol dare una rassicurazione a Silvano Piazza, il sindaco. Ma io credo che questa sia un'opinione che credo anche influenzata dal dolore e dalla preoccupazione per un congiunto, e questo mi assolve qualunque critica nei confronti del sindaco. Ribadisco a nome del governo che non è affatto vero, tanto è vero che c'è già stato un incontro dell'ambasciatore con i tre, quindi a dimostrare che il governo italiano è intervenuto immediatamente. Ci sono azioni e pressioni politiche, ne ha parlato ieri sera il ministro, ha convenuto con lui lo stesso onorevole Fassino, perché vorremmo ricordare al governo afghano, di cui siamo amici, per i quali stiamo spendendo un impegno non solo morale ma anche materiale, che abbiamo diritto ad avere al più presto la verità, nella convinzione che i tre non siano affatto coinvolti. Anche se voglio ricordare, lo ha confermato ieri sera Gino Strada porta a porta, comunque il fatto che nell'ospedale siano state trovate armi e una cintura kamikaze è un fatto. Che noi siamo convinti che i tre italiani non ne sappiano niente, questo voglio dire fa parte di una logica, ma dall'altra parte c'è una logica: nell'ospedale è stato trovato delle armi, e giustamente, che io su questo sono d'accordo con Gino Strada, con 1000 dipendenti che ho non è che posso garantire, certo, qualcuno può essere stato, però io mi pare evidente, quindi quando diciamo cerchiamo la verità, cerchiamo di capire chi ha portato le armi all'interno dell'ospedale, e nella convinzione profonda che non siano certamente i tre italiani ma altri che saranno più o meno collusi con i talebani, il che non è nemmeno, come dire, una cosa sconvolgente in una regione che in gran parte è controllata dai talebani. Però, sottosegretario, io ho 30 secondi per chiudere. Lei non crede davvero che ci siano state le dichiarazioni, non so, il ministro Frattini che ha detto prego che non siano stati loro, oppure subito a dire, voglio dire che è stato un intervento di persone che non hanno nulla a che fare con la cooperazione italiana? Cioè, alcune dichiarazioni forse al momento che sono state un po' troppo affrettate? Io credo che sono state anche molto affrettate alcune dichiarazioni fatte da dottor Strada subito, in un fenomeno, come dire, di attacco e di complotto contro Emergency, e questo francamente è stato un errore, secondo non me. Non è ministro. Ma prendo anche atto del dottor Strada ha cambiato atteggiamento. Le dice Vauro, non è ministro Strada, può fare delle dichiarazioni magari. Forse ha delle responsabilità diverse, credo anche più serie di quelle di questo ministro, ma certamente diverse. In carcere in Afghanistan, che come ho sostenuto per tempo non è la Croisette di Cannes in primavera sotto il sole, è un luogo dove c'è in atto una terribile guerra civile, dove il terrorismo fa morti dalla mattina alla sera, e quindi la responsabilità è anche legata al luogo e al tempo in cui avvengono i fatti, no? Allora, io qui mi devo fermare ringraziando Vauro Senesi, Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri, e Silvano Piazza, il sindaco di Silea, che è anche cognato di Matteo Dell'Aira, uno dei tre di Emergency che è detenuto in questo momento in Afghanistan. Ci fermiamo, devo dire, continuate a votare, io sto con Emergency. Questo era il nostro sondaggio, perché l'abbiamo preso dal... Voi state con Emergency, dall'appello di Emergency. Il 69% dice di sì, sta con Emergency. Vi terremo costantemente aggiornati, ovviamente, per ovviamente stare vicino alla sorte di questi tre connazionali. Grazie a Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino e noi ci troviamo domattina.